sì, è così, te lo fai nuovo, capito? Gappa. E ormai non c'è tutto, là. Provetto, qua è nuovo. Lo usavo pochissimo, quello l'avevo messo in macchina, ma tanto tempo fa, e poi era dentro la busta, coperta, era dentro l'armadio, come vedi non è graffiata, e va anche bene, c'è lo staff, microfono suo, manuale, tutto. Quindi ti ho dato tutto, è chiaro che le cose quando si danno al completo, come hai fatto tu, no? Microfono originale, radio, eccetera. Va bene che va bene. Quindi Babbo sta già operando sul Polmar, molto bene, dì a farlo con calma, non ne ho fretta, intanto c'ho questa, se devo usare l'altro baracchino, uso l'altro baracchino, già ne ho, non ce n'è problema. Buonasera. Gappa, sì, ma va bene, ti ripeto, io c'ho Antonio, non ti faccio entrare, io ti ripeto, l'ho attaccato l'altro giorno, ma prendevo colpi anche le canne 23, ma no, fanculo, lo stacco, allora mi sento armato, non si può usare, sono dei baracchini da macchina, mentre quello che ho, l'Elbex, non mi ricordo adesso la sigla, quello è molto sentivo lo stesso, non prende colpi, niente, questa sembra che non si senta niente, va bene. Avanti Antonio, ciao, buonasera. Ciao, entrambi Claudio, mi sentite tutti e due, e poi non so che ci sia di altro. Già va bene, mi ho finito di fare le commissioni di casa, come si dice, e mi sono seduto 5 minuti, adesso ho acceso il baracchino e sto facendo qualcuno, sono entrato, e già ho capito quello bianco che mi ha mandato Stefano in pratica, c'è le bande laterali, già lo conosco quel baracchino, quello già è bello. Gappa, ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Sì, va bene, no, è bello, cazzo Antonio, molto bello. Oh, non me lo ricordavo, molto bello. Ha una bella linea, sembra un HF, mi è piaciuto questo bello compatto, poi è piatto, bello, molto bello. Esce bene, infatti ho maestro Tonino di metterci l'MB più 5. Ci ho messo l'MB più 5, ho invertito un filo perché aveva la connessione di un'altra radio. Così c'ho l'MB più 5 sul Polmar e l'MB più 5 qua sul 574 della Midland. Vabbè, stavo girando il santo l'altro giorno da Nicco di mattina, c'era la signora Vittoria, sono andato a salutare, però da un bel che non c'è andato. Cazzo, tutti dentro senza mascherina, giocando a calcio, come se niente fosse. Altre volte c'è una Vittoria, stia attenta, mi sento un controllo, te la faccio mettere la mascherina, le faccio da tenere la distanza di sicurezza dentro, perché non si può giocare a carte senza mascherina, ma si sa di rilandarci. Poi lascia perdere che sono andato in pizzeria, eravamo tutti attaccati uno all'altro, per carità, poi questa aveva la maschera da sub in faccia, una busta in testa e un coso davanti, voleva solo vista, guarda, peccato che non l'ho fatto il filmato, se ci avessi portato tutto un figlio piccolo di 2 anni si era spaventato, vabbè, chi è questa, la strega? No, ma stanno diventando tutti pazzi, no, non hanno capito ancora che siamo, no, che non è finito, non è finita la situazione, la pandemia c'è ancora, è in corso e ci sono ancora dei contagi, bisogna stare molto attenti, ma qui ci sono a caso dei pazzi. Infatti c'era Nino, gli ho detto, mettetevi la mascherina giocando a carte, e siamo, ma cosa siamo? Non siete manco parenti, non vivete manco assieme, non si fanno queste cose, ho detto molto pericoloso. Infatti c'è un servitore, gliel'ho detto, cazzo, per essere l'unico, vedi che se la viene in butta la mascherina. Vabbè, già lo so, la cavolta, figurati. Ma anche qua qua di fronte a casa mia sono tutti senza mascherina, si mettono a fumare, non gliene fate nulla, capito? C'è sceso la Simona l'altro giorno, due o tre settimane fa avessi una succo di frutta, e c'era questo, ho detto, guarda, non fuma, no, non succede nulla, ha detto, appena si è messo a fumare cazzo di fronte a Simona, ha già bisogno di vivere e me ne sono andato. Cazzo, non è forte valente a nessuno, capito? Tutti senza mascherina, va a farlo quello che gli pare gli piace, no, non c'è nessuna distanza. No, sono dei pazzi, per me sono dei pazzi. Fatto ti ascolto, Antonio, minchia, sembri qua in stanza, sembri. Bello, fortissimo, chiaro, pulito, c'è una bella recezione sta radio, cazzo, bello. A me mi ascolti bene, Antonio. voglio che ti ascolto bene, ti ascolto benissimo. Io sono anche liscio, sono l'altro. Sono con il microfono a palmare, quello il Ben 6, e l'altro di Salerno ce l'ho giù da Giovanna attaccato con le 4.000 che gli ho dato. C'era il terrazzino, c'era il baracchino, solo che non ho tempo di entrare perché adesso fa 3 turni, lì dove sta lavorando, capite, quindi non c'è tempo. Se ne parlerà a settembre per poter utilizzare il baracchino a Giovanna, se chiude o se apre, boh. Comunque l'altro giorno da Piero non si poteva neanche entrare dai enti che vedano dentro, tutti insaccati, figurati, per carità. Stiano attenti che ci sono dei controlli, dove lavora mia figlia sono andati già 2 o 3 volte e non avvisano più, anche lì lo stesso, c'è il gabbiotto, stanno tutti dentro fumando, tutti ammassati, capito? Bisogna stare attenti, bisogna ancora rispettare le regole, le restrizioni ce le hanno tolte, però bisogna rispettare le regole. C'è la regola della distanza di sicurezza, nei locali bisogna usare la mascherina, bisogna tenere la mascherina. Se entri ti prendi un caffè, te la abbassi, ti prendi il caffè e poi te la rimetti se rimani dentro. Non che altro come te giudizio io, tutti al Pascolo Bravo come se niente fosse. Fate salutato, oh signore, aspetta, no, ciao a tutti. A giubilare mi sono andato, ho fumato una sigaretta fuori con Franco De Sena e me ne sono andato, non ho neanche preso caffè, niente, mi sono andato proprio perché non mi piace così. Avanti, Claudia. È lì il pericolo. La pandemia c'è ancora, bisogna stare attenti. Ripeto, restrizioni ce le hanno tolte, però ci hanno dato delle regole da rispettare. Distanza e sicurezza nei locali pubblici non si può entrare se non hai la mascherina. Questo qua, sono entrato in questo bar di questo amico e cioè una cosa allucinante, cioè come se niente fosse, tutti a pugiare roba come prima, Antonio, uguale, per il ciccione di infermiere, Mattesi, di chi fuggiva a Virillo, questi 40 lì di gojo, di quarantena, minimo ingrassato 10 kg, cioè io gli ho dimagriti 10 kg, lui li ha ingrassati, ma la massa che non si vede manco i botti. Vabbè, sono ingrassato anch'io per questo. Comunque sì, a Bari qua è venuta la vigilanza l'altro giorno, che di solito venivano sempre, prima è successo quel casino, l'ho vista senza maschera, senza nulla, l'ho salutata, c'era l'autista, c'era tutti senza mascherina, bevendo birra, blu blu, e gli ho detto auguri, gli ho fatto a me, gli auguri, perché io se non avete manco mascherina, ah non ce ne fottiamo, mi ha detto, meglio così, gli ho detto. Fottitene, poi a vedere tu che succede, siano molto attenti perché, ti ripeto, è molto molto pericoloso. Comunque, vai qua. Aspetta per arrivare i tedeschi qua, che vediamo, ce ne sarà più di uno positivo, ce ne sarà, compresi anche i milanesi che ci sono già, capito? E noi eravamo un'isola felice finché non sono arrivati questi imbecilli dal nord, capito? Se sono fuggiti, sono venuti qui in Sardegna, uno positivo conosce l'altro, eccetera eccetera, è entrato uno al pronto soccorso e mi ha effettato bene 200, quindi figurati tu, guarda, meglio non entrarci mai al pronto soccorso, meglio niente, meglio rimanere fuori, no, mi controlli fuori dentro un centro, lui avevo detto io, oh, ma neanche se mi baga. Non riesco a capire io perché la gente è così, non costa niente, un po' di attenzione, cioè rispettare le regole, non è che ti stanno mettendo il fucile in testa, no? Rispettare le regole, la mascherina bisogna usare, se lo stai dicendo Antonio, lo sai, no? Tu lo frequenti lo stesso, giocano a carte normali, a tasta in mano, come se niente fosse, infatti mi sono incazzato. Dice, vabbè, qui, là, ma lo state dicendo, ma cioè siete persone grandi, non siete conviventi, non siete parenti, non siete niente. Cazzo, ma buffonete, cioè non va bene così, infatti mi sono girato a Sera Vittoria e gliel'ho detto. Ma tu gliel'ho detto, là, cazzo gliel'ho detto. Ti pare stato venico, vedi che ce l'avevano in busta la mascherina, maragana. Io lo so, a me quando la seconda volta che sono entrato mi ha fatto togliere i guanti. sono entrato con la mascherina, con i guanti, c'è tutti i guanti, anche perché i guanti sono infetti. Se me l'ha appena messo, ti ho detto, si è detto, no, vai dentro, lavati le mani, e mi ha detto, nel bagno e poi esci. E la mascherina te la puoi anche togliere, ma va bene. Allora ho preso, mi sono tolto tutto, mi sono bevuto la birra, poi la giubbia di birra e me ne sono andato. Che sia, brutta. Vabbè. No, io ce l'avevo, sono entrato la mascherina, poi mi volevo prendere un caffè, la verità, me l'ho abbassata. Però parlando te ne ho tenuto la distanza, abbastanza lontano. Poi niente, mi sono girato un po' le balle e niente, salutate, ma sono andato, sono andato a Trice, mi ho preso a Trice caffè. No, non mi piace così, non mi piace. Queste mucchiate così a me non piacciono, quindi s'arrancia, poi vedono loro. Se succede qualcosa si prenderà la responsabilità, io vi dico, so cosa dirti. Vai tra. Sì, a male già non ci vado io, non vado a giocare a parte che il vistale senza quello, senza quell'altro, un metro di distanza e cosa del genere, cosa ci vai a fare? Se vai in acqua, più di uno si mette a pisciare in mare, a cagare in mare, già lo sai anche tu, quindi il virus te lo pigli lo stesso. Poi già lo sai, lì nel nord è tutto inquinato, compreso anche i fiumi ci sono inquinati. C'è il coronavirus anche lì, figurati nelle fogne, nell'acqua da bere, per forza se lo prendo. Addirittura in Cina adesso hanno scoperto che in pratica la carne europea c'era il coronavirus e sono rimasti tutti di nuovo infettati. Quindi ma devi stare anche attento alla carne che compri, devi stare molto attento. Immaginati tu. Cioè immaginati tu, cosa sta succedendo fuori? Ancora sono in piena pandemia, quindi noi qua in Sardegna ci siamo un po' blindati, però come tanto meno adesso dal prossimo mese iniziano a sbarcare turisti e magari succede casino, capito? Ma stare attenti, non c'è da scherzare. Ancora non è finita, quindi bisogna stare molto molto attenti, capito? E vabbè, purtroppo queste gare. Questo qui c'è un attore, ma l'altro giorno ero io al rifornitore, cazzo, ma è tutta una venduta che s'antenna, non è addressata? No, ci sono salito sopra il petto. Pensa sempre, fa sempre vento, cosa cavolo sa qua fare. O gli arrivi, o c'è maestrale, o c'è quello, o c'è quell'altro. Scatto sembriamo a Bonifacio, sembriamo. E usiamo un anno così, che ogni due giorni di calma, tre giorni del vento. Due giorni di calma, tre giorni del vento. Allora ho avuto ammazzarmi. Ho pensato le antenne già due volte lì alla, come si chiama, sempre Ciccanuzza. Li ho messi anche i tiranti. E allora a un certo punto è giunto più di un culo, due antenne della televisione, ho detto capire. E tu prendi un palo d'acqua, perché io parlo di scopi, ho detto non mi piace più. Arrangiati, gli ho detto, fatela portare dal Tonino, perché detto, non si può, ho detto, quei pini detto, fanno una specie di canalone e il vento di terra che butta l'antenna come se niente fosse. Ma lì dove è montato l'antenna TV? Cosa c'è? Staffe a muro ci sono? Dove cazzo è piazzata quest'antenna? Ci sono le staffe a muro, il problema è che gli spacca, gli piega il palo nella base, sopra proprio al limite del tetto, capito? Gliela piega lì. Se tu la sono di 3 metri, io l'ho salvata già due volte 3 metri, nulla, si piega sempre in basso, anche se tu gli metti due cose del genere, nulla, si piega lì, perché fa vento da una parte, vento dall'altra, è come se tu sali su con la mano e fai destra, sinistra, sinistra, destra, alla fine il palo si piega, capito? E ho detto, Tanino, procurati un tubo d'acqua, gli ho detto, da un pollice, da 3-4 metri, gli ho detto, io ti installo direttamente l'antenna, perché ho detto, con palo telescopico, non ti ho detto, spendere, ho detto, 20 euro, 30 euro, va bene, come gli ho detto. Quando poi, dopo una settimana, anche se ci metti i tiranti, te ne scende. Perché tutti quanti qua, non li posso pensare sopra quella del tetto della miera, gli ho detto, che te ne stai a tutto. Hai capito? Gli ho detto, bisogna fare un lavoro fatto bene. Mi buschi, ho detto, un tubo d'acqua, gli ho detto, da un pollice, io l'aggancio a quelle due staffe, stacco il tubo vecchio, e da lì gli ho detto, stai tranquillo che l'antenna non te le cade più, e lì mi comodo, gli ho detto. Ma la marcia è dove si fa 3 metri di tubo d'acqua, da un pollice e mezzo, a 2 pollici, a 3 quarti, da mezzo, ma come lo vuole, non c'è nessun problema, capito? E glielo piace come cristiano. La gente è convinta che le regalino tutto. Ma per carità, va, a futti dini. Se lo compra il tubo glielo piace, se non si arrangia, cosa di una futti. Avanti qua. Ciao, e anch'io mi allontano un attimo, che sono andato a salutare a Luca poco fa e a Coso e a Daniele, mi sono trattenuto, va. Ciao Claudia, saluta Babbo e mamma, già ci sentiamo più tardi. Ciao Antonio, dai, ci sentiamo più tardi se coincide, ok? Già lascio acceso qua, così questa radio scalda un pochino, che era dentro l'armadio di Claudio. Va bene, ok, già ci sentiamo. Saluto a tutti e due. Ci sentiamo dopo, là. Ehi Antonio, a dopo, ciao ciao. Attento 10, c'è qualcuno? Sessione 10? Breco canale 10. Ora, attenzione canale 10. Tutti al mare a mostrare chiappe chiare. Me a lui, me e me. Ehi, c'era gente fino a forse 10 minuti fa. Io stavo, vabbè, mangiando, già lo sai che io sono lungo, facendo altro. E poi ho fatto un giro di canali, sul 35 c'era uno in propagazione in USB che arrivava discretamente, con molto USB. Poi sono tornato qua, era vuoto, ho sentito a chiamare, boh. Ah, ma c'è gente sul sottofondo, italiani, non solo russi. E io. E vabbè, non sto entrando io però, vabbè, sto ascoltando un passant così. Lo lascio acceso un po' con volume basso, però non. Certe volte mi sto seguendo più quel ciclo di Alberto Sordi in TV, no? Quei filmetti che davano il pomeriggio alla notte. E così, dai. E allora ti lascio stare, dai. Ok, vai, ci sentiamo più tardi se c'è qualcuno, dai, a più tardi allora, ciao ciao. Ehi, ciao vabbè, ciao, buona serata. Attento 10, c'è qualcuno? Breco 10, Breco Italia. Breco Italia, Breco Italia. Attento in Spagna, riscucci l'Italia che va a chiamare. C'è qualcuno? Attenzione 10, c'è qualcuno? Ciao Manuel, è bene? Dove sei andato? A Patara. Sì. È già un bel posto, dai, oggi tanto non era tanto giornata di mare oggi. Sì, ma poi sei andato in macchina, non c'è camper o così? No, è macchina, c'è un bel posto. Ok, ma non c'è nessuno, ho fatto una chiamata adesso, non c'è nessuno sul 10. Cos'è, Dico, non c'è nessun altro sul 10. Ciao Robè, Marina, ci sei? Ciao Luca. Vediamo un po', sentiamo il microfono laggiù. Marina, ci sei? Mari. Ciao Emanuele. Sì, amato, rispondo un po', Roberto. Cosa hai detto? Sono qua, Luca, mi senti? Vabbè, dai. Schiaccia, tieni il coso, schiaccia senza parlare. Non ho capito cosa devo fare. Devi schiacciare e non devi parlare, vai. Ma ti sento basso, non so se dipende dal volume della radio oppure dalla ricezione. Mi senti basso? Adesso 1, 2, 3, prova. Forse leggermente più forte. Bella, comunque già va bene, spegnilo, ciao. Comunque si sento bene, dai, forse dipende anche dal volume della radio. Aspetta, lo aumento un po', prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 10, vai. Fortissimo, fortissimo, dipendeva dal volume della radio. Ok, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao. Che radio sta utilizzando lui? Il mio, Typhoon, là. Con un microfono normale, non va bene anche quel microfono, facciamo come fosse peggio. No, sta uscendo bene, è molto chiara la voce, il segnale è quasi 9,5. Sì, già andava. Già va bene, oh, yeah. C'ho fame però. Ma siete vicini come distanza tu con lei? Beh, lei senta me la rippi se sono a monte. Ma a te ti arriva più forte di me sicuramente. Ma cosa? Arriva meno di 9. Come meno di 9? Cacchio, mi arriva più di 9 a me e a te ti arriva meno di 9. Vabbè, sono Smith, ma arrivi più forte tu, Roberta. Cioè, non stiamo parlando di una moto, fai di un... e di un, uno stilo di coso. Cioè, tu hai la moto, vai qualche watt, lì c'è un'antenna... chiamiamola un'antenna, un radiale di Mantova. Ah, pensavo che arrivasse almeno 9 più 30 da te. No, io esagerato. C'era Emanuele, però non ho capito se si è allontanato o che cosa. No, io mi assento, vado a mangiarmi un po' qualcosa, ho fame. Io mi sono un po' ustionato al mare. No, io non sono andato giù al mare, non ho mai giubato ancora al bagno, se Dio vuole la settimana prossima. Ma io ancora, due volte sono andato, comunque una volta al bagno, ho tre altre, la terza volta sono andato al mare, però non ne ho fatto il bagno. C'era freddo, Robert, c'era freddo, freddo. Già lo so, per quello che non sono andato, ho preso il campo e sono andato da un'altra parte, dove c'era un posto all'ombra, tranquillo, riposato e rilassato. Va tu, bravo, dai, accettiamo dopo. Ok, vediamo qua se c'è qualcuno sul canale 10 che vuole entrare, se no rimango in ascolto, poi nel frattempo arriverà qualcuno. Ora, vabbè, pazienza, se vuole entrare, entra. L'ho mangiato? Sì, l'ho mangiato prima. C'è un po' di propagazione, non forte, però c'è. A che mare sei andato? Cosa, Robert? A che mare sei andato? Ah, prima la marina, non si stava bene, c'era un po' di vento. Poi c'era poca spiaggia, non era bello. Alla rotonda. Quando c'è un po' di maestrario non so dove ti conviene andare. A Fiume Santo l'acqua è limpida, pulitissima, non c'è mai tanta gente, la spiaggia è bianca bianca ed è un po' riparato dall'asinara. Sì, ma ci sarà vento anche lì. No, quando c'è maestrale è riparato perché c'è l'asinara, a meno che non ci sia la burrasca, ma se c'è burrasca uno non se ne va al mare. Però una giornata come oggi, se tu vai a Coso, a Fiume Santo, lì non entra il maestrale. Oggi esci in casino, Robert, va. Non è lontano, è più vicino alla marina se conti, perché su per il Porto Torre si prende la camionabile e giri a sinistra a Pestentino, dove ci sono le pale, Emile, hai visto le pale luliche all'inizio di Fiume Santo? Ah, ho capito, sì. Io vado un sacco di volte di lì perché l'acqua è stupenda, pulita, pulita, limpida proprio, è uno dei posti più belli vicino a Sassari, se non dire il più bello di quelli più vicini, e poi la sabbia è bianca bianca. Ah, beh, certo. E la prossima volta andrò lì. Aspetta che c'è un'antenna da tipo. Attenzione 10, c'è qualcuno? Chi sei? Forse sono un FM. Via gatta. Questi forse sono un FM, spagnoli mi sembra. Ehi, che una gana, E sono un po' stanco anche io, però diciamo faccio ora. Poi ho visto un pezzo di partita dell'Atalanta poco fa. In 10 minuti l'hanno fatto 3 gol e uno li hanno anche annullato. Atalanta? Atalanta sa solo 3-0, li hanno annullato, un gol era già dato regolare, poi hanno chiamato al VAR perché l'è rimpallata su un tiro di striscio sulla spalla, ma non si può annullare un gol del genere. Guarda, come il calcio proprio me ne sta scendendo da fatalità. Tu la sei interista, lui? Sì. Adesso gioca alle 10:15 l'Inter. E contro chi? Col Bologna, il recupero di quella giornata. Il Cagliari ieri ha buscato, non li ho visti il gol. Poi ha pareggiato il Torino, poi oggi c'era l'Atalanta Sassuolo, l'altro recupero, e poi l'ultimo l'Inter, il recupero di quella giornata del coronavirus. Poi domani, ogni giorno, lunedì, martedì, mercoledì, ogni giorno ci sono tutte le partite. Domani gioca la Juve pure, Fiorentina, eccetera. Ah, no. Tu Juventino sì. No, proprio io non me ne ho fatto nulla. Io, diciamo, mi piace il calcio in generale, un po' simpatizzo per il Milan, ma non è che sia tifoso, non mi interessa. Però... Ho capito. È stata una giornata un po' fastidiosa, davvero vero bene, al mare, il vento, un casino, l'acqua era un po' ghiacciata, un po' freschetta. E ancora non ha scaldato, dai, ma tra qualche settimana già sarà un pochettino più calda. Ah, ma quando c'è questo maestralino, guarda, io me ne accorgo subito, non conviene mai andare. A parte che a Platamona ci sono stato pure troppo, non ci vado mai, a meno che quando ci sono gli amici di lì al villaggio, solo per quello ci sono. Per andare a farmi il bagno a Platamona, lungi da me, vado, se devo andare vicino vado a Fiume Santo, se no vado da altre parti. Guarda, io vado la Marina di Sorso, ci sta da Dio, l'acqua è sempre bella, né fredda né calda, va bene, sta benissimo. Non so perché magari in altre spiagge è più fredda l'acqua. E dove parcheggia la Marina di Sorso? E sono i parcheggi, non è quanto la rotonda, no? O primo o secondo pittine. Bisogna i parcheggi e come? Ma non ne trovi mai di parcheggio, Didi? L'abbiamo sempre trovato. Se arrivi mai non lo trovi, aspetti, qualcuno se ne va sempre a mangiare. A voi l'abbiamo sempre trovato, come sempre. Guarda, io a Fiume Santo ci vado in qualunque giorno dell'anno, ho sempre trovato parcheggio, ma anche col camper. Io quando vado molte volte vado col camper, la maggior parte delle volte vado col camper, se non mi voglio allontanare, così, se non ne ho voglia di uscire. E l'ho sempre trovato, perché la puoi mettere nella strada oppure direttamente sulla spiaggia, anche se devo dire già due volte era dall'altra parte di lì, mi sono impantanato, ok, sembrava buono, tu sei farata, sono entrate le ruote, è sabbiato, sembrava duro il terreno, poi mi ha dato la mano un tipo. Ci avevamo messo delle tavole sotto e siamo riusciti a tirarlo. Possibile la roba con il camper di assicurazione all'anno? Adesso è aumentata a 200 euro all'anno, prima pagavo 185 e questi pezzenti l'hanno aumentata. Dice c'è stato un aumento generale, ma che cacchio generale? Che i sinistri col camper è molto più raro che farli con le macchine. Sono soldi che incassano politica. Vabbè, ma qualsiasi persona la paga. Se io ad esempio mi compro il camper pago 200 euro di assicurazione. Ma anche di meno, se vai a cercare prezzi anche di meno, anche l'anno scorso c'era 150, sono andato da questo qua per comodità, 185 mi ha fatto perché mi ha dato delle garanzie in più, però quest'anno dice che io ho pagato 200 perché mi sono attaccato, ho detto ma stiamo scherzando, alla fine ha chiamato la direzione generale e mi ha fatto il prezzo, un ulteriore sconto, sono era 223. Ah, puro! Ah, non lo so, infatti non c'è rischio, ti vedete io lo assicuro tutto l'anno, perché secondo me i miei gira me lo assicuro per 6 mesi. Ah, lo puoi fare? Eh certo, anche per un mese, 4 mesi, però alla fine poi dici, se vuoi uscire magari c'è una bella giornata a gennaio o cosa ti posso dire, a ottobre, tanto vale alla tenertela. Però se aumentano troppo, il bollo è che non paghi niente, 26 euro pago di bollo. Brecco. Chi è questo brecco? Chissà chi è, ciao a tutti. Eh beh, ritornato, ho visto la foto di Casi, ma tu eri volando o tuo babbo? Tutte e due. E che te l'ha fatta la foto? Mamma, me l'ha fatta mamma e me l'ha mandata. Bello, bello. Ma voi quindi state verso terra, non state verso il mare? Vabbè, quello era una virata, poi vai verso il mare, vai verso la frana, giri, ci sai, ti vai tipo 100-200 metri sul mare, cioè vai. Ma non si usa a salutare? Ho salutato tutti, cosa c'entra? Riccardo non ha neanche mangiato adesso per venire a parlare, è vero Riccardo? Sto mangiando un panino adesso. Ah, così è, cavolo, eh? Beh, com'è andata oggi il volo? Bello, c'era un po' di vento però di lì all'Argentina. No, l'ho messa oggi, era ieri, oggi non si poteva fare niente, oggi era troppo forte il vento, non abbiamo fatto niente. Il volo, roba di che cosa? Col parapendio lui vola, ma non sai quanto sale in alto, anche 400 metri dice che sale. Ah, allora, ma sarebbe quel coso senza motore? Quello senza motore, quella specie di aliante a vela che ti metti dietro, a due posti ce l'hanno loro, bello, è una bella storia, ci vuole anche un po' di coraggio per salire, e vanno in giro con le correnti, seguono le correnti ascensionali e vanno in giro. Cavolo, ma col motore non è più sicuro. Vabbè, anche col motore sino a un certo punto, ogni tanto ne cade anche qualcuno col motore, ma diciamo loro planano, a meno che non si rompa la struttura, ma già riescono ad atterrare piano piano, poi regolano le correnti, loro scendono piano piano, salgono piano piano, stanno anche ore girando. Oh, l'altro giorno mi ha fatto pilotare a me, babbo, ero tutto il tempo quando sono andata alla strada pilotando, appunto l'ho messa oggi perché tornando perché non prendeva lì. Ma scusa, vabbè, come si fa a farlo decollare? Da qualche montagna? Spara pendio, prendi un pendio, alzi la vela, decolli. Beh, ho capito. Un giorno se capita, se mi viene il coraggio mi fate un giro, Riccardi. E non è niente solo il biposto, cioè abbiamo anche il triposto. Ma che cazzo fate nelle tre persone, ce la fa? Ci sono anche quelli che hanno fatto il 15, non so come si chiama, il 5. Penta a posto, si dice. Sì, esa a posto. Bene, bene, allora il penta a posto. Comunque noi possiamo fare anche il triposto. E monoposto non ce l'hai? Sì, anche monoposto esiste, se vuoi decollare da solo non c'è problema. No, lo sai cos'è, per vedere dall'alto è bello, mi porto il cellulare, metto la fotocamera e la videocamera, anzi faccio una cosa, sempre che non mi cago sotto al primo giro. Ma la sensazione brutta è stata la prima volta che hai provato, Riccardo? Ma che ti volo, se quando sei stati a terra, no, non è brutta, ti senti molto meglio. E l'ho vista adesso, vabbè, devi trovare un punto alto, mamma mia, no, non ce l'avrei coraggio io. Allora, gente, là ci sono quelle collinette di lì, saranno 50 metri, così loro si buttano verso il mare. Il problema è portare tutta la sua attrezzatura, non è così? Sì, io qualche volta con Babbo in solito, quando andiamo, lui si carica le due vele, io la selletta, le sellette con lui le vele, io le sellette. E se ti viene voglia di scendere, come fai, Riccardo? Se ti viene voglia di scendere, a parte tutti e due i freni, inizi destra-sinistra e inizi a fare un giro, tipo un 360 piano piano IRS e così inizi a scendere. E poi praticamente quando devi salire con la termica, la bolla d'aria ti porta, di calore ti porta su e così inizi a salire. No, sto dicendo, già lo so più o meno il funzionamento. Dico, quando vuoi scendere, nel senso, ti sei stancato, lì dice la tua padre, ma fammi scendere che non ne ho più voglia. E lui vuole continuare a volare. Come fai? E una volta che è arrivato a terra, no, devi smontare tutto per ripartire. Beh, no, se sei bravo, sto poco, puoi riatterrare anche dal pendio da cui sei partito. Ah, se c'è la corrente giusta, se no devi smontare tutto, risalire su, per dire se ci siete un paio d'ore, alla fine dice basta, non ne ho più voglia perché mi fa male sedere, che stare sempre seduto, non so se sia molto comodo. No, stai bene, ti guardi il panorama, non ci stai neanche pensando alla tombina. Ehi, figurati, mi ha raccontato Luca, il padre di Riccardino Sergio, sono partiti, la gente non lo sa dove, dalla gente la sono arrivati sino a Bosa, planando. Hai sentito? Vai, Riccardino. Sì, però solo lui da solo perché ci sono anche correnti brutte lì e non se la vorrei rischiare. Noi però facciamo un bel pezzo solo alla rientiera, poi vabbè, ci sono anche altri posti. Non so se lo conosci, la zona di Castelsardo vicino alla Rossella Elefante, anche lì è buono per il biposto, lì si vede. Sì, lo conosco, lì è bellissima quella zona, però di lì magari è un po' limitato perché ci sono delle belle rocce grandi. No, ma decolli tranquillamente, parti, non so se lo conosci, il punto dove c'è anche uno chalet dei parapendisti, che c'è il bar lì, e poi c'è tutta la piattaforma, vedi il mare lontano, e prendi, no, le rocce non danno fastidio, e poi scendi giù nei campi e ti vengono a recuperare con il piccato. Ah, ti recuperano loro, perché lì è un problema poi ritornare su. No, non ce la fai, vengono a riprendersi con il piccato. Ma cosa vi portate? Radio appresso quando state lì? Sì, radio appresso sì, ci portiamo qualcosa per comunicare tra di noi, per la 43. Cosa vuol dire per la 43? 43 MHz, sport e tempo libero. Ah, stavo pensando, 43, stavo pensando un nome di, perché qua dice la 25 la fidanzata, la 50 la moglie, che cos'è questa 43? No, vabbè, la frequenza è forte. Ma quando siete, per dire oggi, tu con la tua famiglia, ce l'avete, per dire, la tua mamma a terra, gli lasci un PMR, un walkie talkie, ce l'avete qualcosa per parlarvi? Sì, abbiamo qualcosa per parlarci, infatti abbiamo una cosa non molto professionale, i walkie talkie dell'Idol, e adesso ci dobbiamo attrezzare perché non valgono molto, e comunque se li supportiamo finché non prendiamo qualcosa un po' di più senti più forte sempre nel centro della legalità. Eh certo, perché con i PMR non ce la fai, i PMR anche un chilometro fanno, anche di più, se sei in alto anche di più. Già lo so, infatti dobbiamo prendere qualche cosa, qualche altro walkie-talkie un po' più migliore. Un migliore, perché di quelli che usano tutti, così hai lo stesso canale e perché anche tutti hanno lo stesso, hanno tutti il Baofeng alla fine. E vabbè, Boafeng bisogna stare un po' attenti, perché quelli sono fuori legge, quegli apparecchi. Ci sono i PMR, mi proprio io abbiamo fatto una prova, io ne ho uno di quelli per legge, un Blondi, una coppia ne ho di quelli lì, e abbiamo fatto una prova con Fabio e con Antonello Pompugno, ci siamo sentiti, diciamo Fabio l'ho sentito per un attimo, però se presente ero dentro casa, io con l'antennina che non vale niente, quello lì, magari se mettevo verso la finestra, diceva, però Antonello l'ascoltavo molto forte, e figurati se ci ascoltiamo in aria aperta, forse un paio di chilometri lo puoi fare. Penso proprio di sì, infatti servono sempre, quanto quando tipo, visto che hai la stessa radio, sintonizzi con lo stesso canale, con gli altri parapendisti come facciamo di solito, che ce la danno, e poi puoi parlarti di dire andiamo lì, stai attento quello lì, tipo per un esempio, perché qualche volta all'inizio tu c'è il palchetto che bucare bene, stai attento che c'è il palchetto, quindi. E cosa fai quando c'è il palchetto? Si buca le vele e niente, quindi tu inizi ad atterrare normalmente, non sai, si buca la vela. Niente, e poi scendi piano piano come se non fosse successo niente. E quanto siete rimasti in aria oggi? No, oggi non c'era niente da fare, era troppo forte. Ieri siamo rimasti un'ora e mezza. Volevo dire ieri, un'ora e mezza, dai. Quindi abbastanza. E non ti stufi a stare così tanto? Figo del panorama, non ci pensi. Io che stavo anche pilotando, non ci stavo pensando a manovrare. E tua sorellina non l'ha portata? Mia sorellina praticamente ha fatto un sacco di voli di posto, perché la settimana scorsa mi si è fatto due voli di posto e poi quando toccava a me è calata la commissione, quindi questa settimana non ne ha fatto niente. Avete fatto un po' per uno, dai, è giusto così. Ok, vediamo se Luca è rientrato. Avanti Luca. Mi sistemo il tutto, mi metto il pigiama e stivo, ovvio, e poi riprendo, dai, prendete voi. Ehi, ho mandato un'immagine a tuo padre, l'hai vista Riccardo? Boh, non lo so, adesso Babbo sta caricando il camper e adesso guarda cosa gli è arrivato, perché non prende, gli è arrivato diverse cose. E adesso la guarda, glielo dico. Comunque, cos'è? Dove sei andato? Dove sei andato? Dove stava la foto? Ma era oggi. A dove? Ho visto la foto che hai messo un'ora fa, non mi ricordo dove sei andato. No, sono uscito tardi, poco prima di pranzo, a mezzogiorno sono uscito, ho fatto un girettino, sono andato verso Cheremule, su, vicino a Tiesi, là c'è una pinetta, mi stavo intrufolando col camper e poi era un po' pericoloso, sono tornato indietro in retromarcia perché non si poteva andare più avanti, è un bel posto, molto alto, panoramico, a fine mi sono fermato in un posto, sono rimasto di lì e poi sono andato vicino sempre di lì, a Torralba c'è il monastero dei Frati, mi ho fatto la foto di lì come ricordo, ogni volta che vado da qualche posto mi faccio una foto. Capito. Ma da solo viaggi, no Roberto? No, ero con una mia amica. Ah, sono andato da solo, mi ha parlato mia da giura. No, e che cazzo, non vado mai da solo, mai andato. A meno che non devo andare a fare benzina. Carburante, anche non benzina, gasolio. Adesso devo finire l'altro, quell'altro è molto più maneggevole, più comodo, non mi rompa le scatole, ma questo è troppo ingombrante. Se quando dove vai viene male, entrare, non ti fanno entrare perché le leggi non te lo permettono. Ma c'è quelli modelli vecchi, c'è il modello nuovo. Cosa devo dire? Modello, vabbè, vecchio è vecchio il camper, è un mansardato, quelli che hanno letto matrimoniale sopra la cappotta e più c'è altri quattro posti dietro. Diciamo di vecchia generazione, però i camper sono più o meno come funzionalità, sono tutti uguali, magari lo puoi trovare più aerodinamico, motori moderni eccetera eccetera, ma i letti e quello sono più o meno uguali, magari uno c'ha il frigorifero migliorato, c'ha l'aria condizionata, ma come concezione non è che abbiano avuto grosse modifiche i camper vecchi da quelli nuovi, i materiali magari, le pareti esterne, il mio in alluminio, quelli nuovi sono tutti in vetroresina, ma se prendono fuoco è un problema gravissimo, si incendiano in un attimo. Ah beh certo. E vabbè, pensate che faccia solo bene. Sì, il cazzo, avuti, me ne sono tolto soddisfazione con quel cazzo. Molto vecchio, però efficiente, in ordine, perfetto. E chissà, magari che metta qualche soldino, me lo compro anch'io. Adesso li troviamo a un prezzo, e poi un investimento, guarda, è una cosa che non te ne pensi, se ce l'hai non te ne pensi, perché li puoi trovare da poco prezzo, vabbè, a meno che non trovi carraggi, ma diciamo dai 5.000 euro in su, quelli vari, quelli più vecchi, a salire, però già si trova qualcosa, ormai, e poi c'è tutti quelli che si vogliono comprare modelli nuovi, con motori tipo vettura, molto potenti, eccetera, eccetera, per cui se ne disfano a poco prezzo di questi di cose. I migliori però sono i furgonati, quelli però costano un bel di soldi, infatti io me ne sto allestendo uno, è quasi finito, quando capita già te lo faccio vedere, Luca. Ne ho visto uno, guarda, l'anno scorso, non mi ricordo, forse la zona di Portottone, se non mi ricordo davvero, con la mia 25, ma qui vedevo questo camper grande, bello, minimo, quel camper lì, minimo, guarda, avrà pagato forse 200.000 euro. Ci sono di tutti i prezzi i camper. Il più scaccino non lo paghi meno di 50.000 euro, tutto a salire, poi se c'è un motorhome di quelli di 10 metri non ne parliamo, quelli che hanno tutte le cose possibili e immaginabili, tutti motorizzati, garage dietro, eccetera, quelli. Ma non ne fai niente, io sinceramente sto prendendo, ho preso anzi questo più piccolo, proprio per permettermi di andare dove voglio io, è omologato come vettura, come autoveicolo, per cui non ho limitazione, perché il problema del camper, secondo dove vai, non ti fanno entrare, cacchio, non sai quanti posti, io faccio tutta la zona da Olbia in giù, scendendo l'Oliastra, tutte quelle cose, ci sono un sacco di posti bellissimi, però vietato andare col coso, non puoi entrare col camper, devi parcheggiare fuori, se per dire vuoi andare a Calagonone nuda, devi rimanere fuori, puoi andare a Santa Teresa, solo se ti devi imbarcare puoi entrare, solo devi lasciarla fuori del paese, poi non parliamo tutto San Teodoro, tutta quella zona lì, guai, tutto Pittulongo di Olbia, tutto vietato per il camper, ci sono pochi posti che puoi andare. Ho capito, ma questo qua sembrava, non dico quanto un pullman, quasi, quasi, mancava poco, ma bello, e pensai che erano francesi. Ne vengono dei tedeschi qua con delle bestie enormi, ma sono quelli così grossi, per dire se devi andare in qualche posto fisso, non è per camminare. Negli Stati Uniti lo puoi fare quando fai 500-600 km tutta una tirata e vuoi il massimo comfort, ma qua quando c'è una cosa così grande è soltanto quelli che fanno il coso statico, nel senso che si fermano in un camping e vogliono una casa come si chiama, sulle ruote, se no non ne va in usa. Io invece per il tipo di coso che utilizzo ne voglio uno piccolino, infatti questo è a due posti, questo ciò che sto facendo, due più uno di riserva, quando devo uscire in compagnia massimo due persone, se invece devo uscire con la famiglia uso l'altro. Guarda, se mi sarebbero entrati dei soldi magari l'avrei preso, si paga poco di coso, si paga poco di assicurazione. Sì, il mantenimento è pochissimo, per quello poi non me lo vendo l'altro, alla fine ho detto, ma dammelo quasi va, ci butti 250 euro all'anno, neanche, perché 200 di assicurazione, 30 euro neanche di bollo, alla fine non ti costa niente, è solo il carburante che utilizzi, poi ho detto, cosa me lo vendo per svenderlo, e poi se vuoi uscire con mie figlie o con i fidanzati, eccetera, non posso fare niente con l'altro, per cui ho deciso che me lo tengo, a meno che non mi capiti un'occasione per dire, vendo il mio e poi con questo me ne compro uno più moderno, più efficiente, eccetera, però non lo so neanche. Riccardo, avanti a te. Eia, è molto meglio la cellula, però ci dovresti prendere anche un pick-up, ci sono alcuni che ti vengono anche tipo la coppiata, però forse è meglio anche un camper. Ah, tre figli, c'erano la patente, roba. Allora, mia figlia la piccola no, ha fatto 18 anni da poco, la grande ha rinviato 5 volte l'esame di guida, 5 volte, perché prima non so se è successo all'esaminatore, la seconda volta si sono dimenticati di dare, anzi di, è successo un problema alla motorizzazione, la terza volta doveva sostituire un'altra persona, la quarta volta si sono dimenticati di dare la documentazione con il direttore della motorizzazione all'esaminatore, e la quinta volta poi il coronavirus, non riesce a pigliarla, doveva farlo a dicembre lì l'esame, e poi per una cosa o l'altra tutto rinviato. Casino, chissà, ieri eravamo qui in giro, siamo andati roba, poi siamo passati in testa a Tola, era strapieno, devo dire, sta tutto un assembramento allucinante, confronto a piazza Fiume, diciamo, questi amici che stavano suonando, no? Sono a spagnolo, la chitarra a spagnolo, come si dice? molta gente, ma in Piazza Tola c'era il mondo, nel mondo. Ma lo immagino, poi lì ci sono, adesso hanno messo stata la possibilità di mettere i tavolini fuori, e perché via Roma? Mi sono spaventato ieri, cavolo la gente che c'era. Ho giù a Platamo una caffè 7, ho accompagnato mia figlia ieri sera con gli amici. Ecco, viene la bocca di ieri, vabbè, ma lì ci vanno sempre, ma via Roma mi sono spaventato, mai tanta, così tanta gente a tavolino, ma pieno. Roberto, posso fare una battuta? Scusa Luca, velocemente. Cos'è il ritardo? Ti posso chiamare un attimo, un minuto. Scusa Luca. Quando vuoi, non ti preoccupare, scusa Luca, avanti. Oh, ciao a tutti, buonasera, stavo ascoltando, non potevo parlare. Come va, tutto bene? Michele da questa. Ciao Michele, ben sentito. Infatti anche l'altro giorno ho detto, ma Michele non si è più sentito. Ho detto, lasciamo da un po'. C'è stato l'ingresso, poi è scomparso. Mi sto aspettando la chiamata di Riccardino, c'è Luca dall'altra parte. Finché non mi chiama posso intervenire. Comunque ben sentito Michele, ti rilancio a Luca. Ciao, ben sentito Roberto. Ciao Luca, ciao Riccardino, ben sentito entrambi. Tutto bene. Sì, un po' da fare, un po' di roba da fare. Tra lavoro e cose da sistemare, ma con tanto ascolto, ma c'è anche da dire questo, se c'è la radio con i PC accesi, sono troppo vicini e rientro, perché c'è una scena vicina, rientro dal PC e mi blocca tutto, quindi a volte sono costretto a rimanere in ascolto, a volte invece c'è ascolto con lo scanner, che magari o sono già in 144, o sono riguardo qualche film e con l'altro orecchio peloso sento e niente, dai. Comunque già vi ascolto ogni tanto, perlomeno voi che siete vicini quando il gommino. Vai Luca se mi ascolti. Mi ascolti solo tu Roberto. Olà, sto uscendo. Già stai uscendo. Ui carissimo, ma queste antenne non le fai girare. Io qua guardo ma non vedo che si muove nulla. Fra un po' non le vedrai più neanche, ne ho tolto già l'altro elementi. No, sto smontando tutto. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Sto smontando le antenne, no? Le usate poco e per rovinarsi le rimetto giù. Tanto elementi l'ho già tolto, adesso ho tolto gli altri 5 elementi. No, ho tolto la 3 elementi e 10, 15 e 20. E poi ho tolto anche la monobanda dei 10 metri, la 3 elementi. E poi adesso devo togliere, perché è un po' più alto, non ci arrivo, quindi mi devo far aiutare. Devo togliere 5 elementi dei 6 metri, lascio solo i filari, roba intanto per Michele. Quell'uso che ne faccio io va bene. Ti ascolto comunque, sei fortissimo, 9 più 30 sei qua. Io sei più 40, io sto usando un radiale di Mantova come antenna dentro casa. No, ma mi sembra di averla vista la 3 elementi pochi giorni fa, l'hai tolta proprio adesso. Ah, sarà una ventina di giorni fa, ho completato. Sì, la metà ne avevo tolta, se l'ho tolta del tutto non c'è più. Di averla vista, allora vabbè, non è che sia vicino, ma di averla vista ancora la 3 elementi. Vabbè, mi dispiace che non l'abbia usata. Vabbè, che vuoi fare? Ma non sono mai stato amante, lo sai benissimo. Quindi non sono mai stato amante di niente, perciò è inutile tornare sui discorsi vecchi, li ho già fatti mille volte. È stata una spesa un po' azzardata forse. E quindi niente. Le ho tutte eliminate. C'ho le filari, c'ho 10 metri dove lo facevo la verticale. E poi c'ho 15, 20, 40, 80. Quindi più che sufficiente per divertirmi. 6 metri lo tolgo direttamente, almeno a futti nuda. E basta, Michele. Tutto lì. Va bene, comunque arrivi, ti ascolto benissimo. Tu mi stai ascoltando bene, sì? Sembri qua. Guarda che è abbastanza una pena. Sembri qui. Non c'è niente, tra me e te siamo a più di schioppo. Se accendo la luce del cellulare mi vedi anche. Cosa ti volevo dire? Io la passione di lanciare al vento, già te lo ricordi, ma quando ero ragazzino ero sempre lì in banda laterale. Parlavo più in banda laterale che in aereo. Ero sempre lì di ex qua, di ex là, una delta loop, una quattro elementi, avuto la Mantova, tutto, stavo sempre andando facendo, a ricerca del collegamento più lontano. Ma propagazione c'era un po' di più forse di adesso, sai che c'erano più macchine solari, cosa, adesso non... Ogni volta che accendo provo ad ascoltare, ma non è come prima. io mi ricordo che quando ero ragazzino c'era la propagazione d'inverno, con tutta l'Inghilterra, Francia, ti arrivavano 9.30, 9.40 tutti i giorni, erano anni diversi. Non so se te lo ricordi questo qua. Io non lo ricordo. No, ma io ho tolto tutta la parte amatoriale, non lo usavo, non mi interessa. Sto usando un baracchino. Baracchino del 1976, infatti si chiama 76574 della Midland Base, che ho ricevuto proprio stamattina. Sono andato a trovare un amico che mi deve fare, gli ho lasciato un altro vintage che mi deve cambiare il commutatore dei canali e mi ha regalato questa radio. Abbiamo fatto altre cose tempo fa, quindi insomma si è debitato il grandissimo e carissimo Gianni Capri 2. Mi ha dato questa radio molto bella, è un vintage, ripeto, 76, gli ho abbinato questo microfono e sto usando questo, è un 40 canali. Sì. Poi anch'io mi sto entrando pochissimo, se si era ascolto, non sono molto motivato in questo periodo, ho altre cose da fare e quindi mi sono un po' allontanato. Adesso mi stavo ascoltando e sono in attesa che inizi la partita, mi voglio guardare una partita stasera, intanto in TV non c'è niente, inizia alle 10:45 e quindi ero qua in stanza e poi ci entro a salutare a Michelitto. Poi saluto anche a Roberto naturalmente, a Luca, a Riccardino, insomma, un saluto circolare a tutti. Ciao anche a Michele. Ma sono del Milan, dell'Inter non le ha di baracchini? No, dell'Inter non ne ho, sono milanesi però dell'Inter no. Non ne ho. Quindi dopo mi guardo Inter-Sampdoria che ho ricollegato proprio in tempo Sky, ho perso quella, se non perdevo anche quella che ci sono, che domani ci sono un po' di partite, ci sono tutte le altre, la sera mi ho guardato l'Atalanta. Atalanta, poi gli metto il suo Gagliari, per carità, ci si viene nel biglia 4, ma domani ha preso due soli. Vabbè. Vediamo un po' se è rientrato Roberto, e dopo io vi lascio, sono entrato solo per salutarvi, perché io non sono molto notturno, mi piace più guardare la TV dopo cena, anche perché mi viene sonno. Avanti, Roberto, se ci sei, se no riprendi tu, Luca. Sì, sono già entrato, dai. Ma Paolo Riccardino mi ha chiesto un'informazione. Ok, chi c'è rimasto? C'era Michele e Luca, ancora ci sono. Avanti, prima Michele, se c'è, poi Luca. Sì, ciao Luca, comunque, ben sentito. Anche io la penso come te, Claudio. Anche la notte un po' di TV, ma poi nanna, domani al lavoro. Sì, comunque, cosa ti volevo dire? A proposito delle antenne. Vabbè, le antenne fanno... Se ti servono le usi, se non ti servono è inutile tenerle così, perché poi hanno bisogno di manutenzione, poi anche dove ci sei tu non si sa mai che ci sta che qualcosa ne cada giù, no? Io ci avrei avuto i capelli dritti, già dove stavo io avevo sempre paura, intanto arrivava la sventolata e piegava qualcosa, però se non male da me c'era il giardino intorno, lì se c'hai macchine e cose e poi da quell'altezza, anche se ci stacca un radiale farà. Anche io faccio due passaggi e poi ti saluto. Dai, riprendi Luca, poi vediamo che si è rientrato Riccardino. Vai Luca. Via. Ciao Michele, saluto anche a te. Casino questi baracchini, mi sa che io me li vendo tutti, quelli che ho.